Ci sono cose illegali che noi facciamo senza nemmeno accorgercene, o che facciamo consapevolmente, ma che non toccano la nostra morale. Poi invece ci sono cose che illegali non sono, ma che ci creano imbarazzi, ci creano vergogne. E com'è come non è, quelle cose di solito hanno sempre a che fare con il sesso e con il senso di colpa. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16 e 5 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. Scaricare fin dalla rete, parcheggiare in divieto di sosta, prendere il tram senza biglietto, pesare la frutta e poi aggiungercene dell'altra al supermercato dopo aver stampato l'etichetta col prezzo, pagare una birra in meno, non raccogliere i bisogni del cane, girare con uno stop dell'auto rotto. Queste sono tutte cose che capita di fare o capita di vedere fare ogni giorno. Eppure, se un nostro amico o parente ce lo dovesse raccontare, queste non appartengono a quella categoria di cose che ci fa cambiare opinione su di lui. Non come lo sarebbero cose tipo un tradimento o una nulla facenza prolungata, ad esempio. Sono cose che anche noi ci perdoniamo, probabilmente perché ognuno se le perdona per sé. E quindi questa grande manifestazione di perdono collettivo, nessuno di noi pensa di essere fuori legge, per il semplice fatto che tanto lo fanno tutti. L'altro giorno ho preso una multa per aver fatto un pezzo di strada in contromano in Vespa. Avevo torto, eppure mi sembrava assurdo, ma sapevo di avere torto. Eppure non perdonavo al vigile di avermi multato. Ecco, allora fate una cosa, provate a fermarvi 2 minuti. Fermarvi da quello che state facendo, provate a pensarci. Riflettete sull'ultima cosa illegale che avete fatto nella vostra vita. Anche una cosa piccola, non per forza macroscopica, una cosa che sia confessabile, una cosa che possiate raccontare ad una radio. Provate a pensare alla semplicità con cui la fate, la semplicità con cui la raccontate agli amici. E poi facciamo così. Io vi garantisco l'anonimato e voi mi date una mano a riempire una specie di lista che tiene tutte le piccole illegalità quotidiane. E il numero è quello, è sempre quello lì. È 800240024 per chiamare in diretta, oppure per mandare gli sms 349-238-6666. C'è anche una mail che io sono qui, @radio24.it. Oggi è una di quelle puntate per cui se si dovesse dare un titolo alla puntata potremmo trovare una cosa che si avvicina a una cosa illegale che non farò mai più. Non vi chiedo di promettermi che non la farete mai più. Vi chiedo semplicemente di mettervi una manina sulla coscienza, o meglio una manina in testa, e provare a ricordarvi tutte quelle piccole cose illegali che avete fatto recentemente. Magari le avete fatte un attimo fa. Io non vi chiedo il nome. Voi, a parte che potete darlo finto il nome se telefonate, ma anche se lo dichiarate, io vi chiamo con un nome qualunque. Facciamo un nome che va bene per un uomo o una donna, che è sempre stato Paolo, rimane Paolo. Paolo e Paola, ok? 800240024 349-238-6666. Le piccole illegalità quotidiane, tutte quelle piccole cose che uno fa, ma che non si rende conto, che fa strano se ti dicono: ma guarda che non si può fare. Ma come non si può fare? L'ho sempre fatto. Prima l'ho chiesto sul profilo Facebook, che è sempre quello, che è Matteo Caccia, io sono qui, su Facebook, appunto, di quello stavamo parlando. Ho chiesto proprio, in realtà ho chiesto due cose, ho chiesto due liste. Ne ho chiesta una che sono proprio quelle cose che sono illegali ma che sono socialmente accettate, e poi ne ho chiesta un'altra. Vi leggo prima questa, cioè quella di cui vorrei sentirvi raccontare oggi. Allora, tutte le cose illegali ma che comunque si fanno perché in società sono accettate. Allora, vado contro a tutto il codice stradale, non dico i nomi ovviamente, Guido usando il cellulare, a volte leggendo un libro. Fumo marijuana. Che io non sono sicuro che fumare marijuana sia un reato, non credo, credo che sia un illecito amministrativo, in base a quanto è i grammi che avete con voi. Non ci addentriamo nel merito, però non sono sicuro che sia illegale. Scaricare da internet in macchina mentre guido, capita di fare di tutto: cellulare, mangiare, bere e scrivere. Bimbi in auto senza seggiolino. Questa ha scatenato su Facebook una roba per cui credo che quella persona che ha scritta si è cancellata da Facebook per tutta la vita. Uso Facebook sul cellulare in auto, vado in auto senza gli occhiali e scarico la musica, mo. Do da mangiare ai piccioni in piazza Duomo a Milano, che è assolutamente vietato. E poi abuso del parcheggio interrato dell'università, che è gratuito per gli studenti ma non quando vado in università. Ho fumato un sacco di canne, ancora. Ho votato come oggi ma non voterei più. Forse le due cose sono in relazione. Questa non è una cosa illegale, direi. Uno ha il diritto anche di non votare. Scarico programmi, film, giochi e musica da internet in maniera esagerata. Ho fumato marijuana, sono riuscito a girare oltre un anno con il serbatoio del GPL fuori norma e guardo i film e programmi in streaming. Poi mi torturo i denti con le unghie quando mangio le costicine. Ma questo non è illegale. Uso i sacchetti di plastica non biodegradabili perché quelli ecologici puzzano di mangime per polli e si sfracellano appena appoggio dentro qualsiasi cosa. Quando ero all'università mi piaceva suonare i campanelli di notte. No, questo probabilmente fa parte delle cose riprovevoli che invece sono legali. Ancora cose illegali: parcheggiare nella sosta riservata carico e scarico. Non separo il rifiuto secco e il rifiuto umido. Telefono mentre guido, questo significa circa 5 punti della patente in meno e 180 euro di multa. Sbircio nella cassetta della posta della mia vicina di casa per prendere il catalogo IKEA. Lampeggio agli altri automobilisti se c'è un autovelox. Anche questo è illegale? Non sono sicuro, però effettivamente secondo me se ti beccano a lampeggiare non è proprio carino. 800240024 349-238-6666. Questa cosa delle questioni, delle cose illegali da non fare più, mi è venuta fuori perché a casa sto continuando in questa opera di conoscenza del vicinato. E ho conosciuto, e adesso vi racconterò meglio, un ragazzo che ha più o meno la mia età, che fa esattamente uno di quei lavori che non sono illegali. Cioè, non ti vengono a prendere a casa se lo fa. Infatti ci sono persone che lo fanno. Però, nella nostra coscienza comune, è come se lo fossero. Cioè, moralmente, non sono accettati. E quindi, dopo aver conosciuto lui e dopo aver preso questa multa per aver fatto questi 50 metri in contromano in Vespa, ho pensato appunto a quante sono le cose illegali che facciamo e invece le cose di cui ci vergogniamo e che illegali non sono. Vi faccio un esempio delle cose che sono arrivate, che è la lista B, l'ho chiamata, cose socialmente riprovevoli. Guido mangiando è legale, però è riprovevole. Al posto di lavorare sono qui a scriverti. Al ristorante mangio senza alcuno scrupolo per le aragoste, sapendo bene come vengono cucinate. Mi sposto con la macchina anche quando potrei tranquillamente farlo a piedi o in macchina. Ripeto, queste sono cose che sono socialmente riprovevoli, non illegali. Mi rosicchio le unghie all'inverosimile, mangio di nascosto le caramelle dei miei bambini, dico una bugia solo per il gusto di farlo. E poi quando passa una bella ragazza la guardo bene, anche se sono con mia moglie a fianco, questo mi sa che è un problema di tua moglie. Ma soprattutto sono troppo sincera e lo faccio apposta per ferire chi ho di fronte. Sono un mostro, lo so. 800240024 349-238-6666. Vi fermate, vi garantisco l'anonimato. Vi fermate due minuti e mi raccontate quali sono tutte le cose illegali o magari l'ultima cosa illegale che avete fatto. Qui 800240024. Ora quello che mi è accaduto ieri. Sì, ci riflettevo proprio ieri a proposito del concetto di legalità. Pensavo questa cosa, che io aborro l'illegalità, che per me quella è una cosa che quasi non conosco, perché non mi appartiene. È qualcosa che sta così lontano da me, che riguarda persone che giocano un'altra partita, una partita diversa dalla mia. Anzi no, che giocano proprio un altro campionato. E ci pensavo in Vespa, venendo qui, in radio. Ci pensavo mentre percorrevo quei 50 metri in contromano, appena fuori da casa. Vi spiego, quella via è un senso unico. Quindi appena fuori dal cancello io devo andare a destra e lo devo fare per forza perché è un senso unico obbligato. Solo che la radio sta a sinistra rispetto a casa di Natalie. Quindi seguendo il senso unico allungherei tutto di circa un chilometro. Allora cosa faccio? Giro a sinistra, vado piano piano, faccio 50 metri in contromano e via. Solo che ieri, arrivato in fondo, c'era un signore in divisa. Mi ha fermato, mi ha fatto notare che ero in contromano e mi ha dato una multa. E devo dire che la cosa mi ha anche molto sorpreso. Lo faccio talmente tutti i giorni che per me è normale fare quei 50 metri. Ho provato a dire al signore in divisa che era una piccola cosa quella dei 50 metri e gli ho detto scusi, se ognuno di noi dovesse pagare una multa per tutte le piccole cose illegali che fa durante il giorno, pagheremmo più multe che spese al supermercato. E lui mi ha risposto sì, e forse cambierebbe qualcosa. Ok, sono d'accordo con voi, la sua risposta è retorica eppure un filo demagogica. Però di tutta questa storia c'è qualcosa che mi ha stupito. Ed era il fatto che io non mi sentissi per niente in colpa. Cioè, avevo fatto una cosa che non andava fatta, ma non mi sembrava per niente riprovevole. Anzi, io ero convinto che se l'avessi raccontato al bar, tutti sarebbero stati d'accordo con me sul fatto che in fondo 50 metri in contromano con uno scooter non sono niente di che. Ecco, e da lì ho riflettuto su tutte le piccole cose illegali che faccio durante il giorno e a quanto siano socialmente accettate. Cioè, se lascio l'auto in seconda fila per 10 minuti, ad esempio, quella non è una cosa che mi vergognerei di raccontare a mio padre. Se scarico un film, non è che non lo racconto a mia mamma per paura che mi guardi con aria di condanna. E così, è che ci sono cose illegali che facciamo senza nemmeno accorgercene, o che facciamo consapevolmente, ma che non toccano la nostra morale, o il nostro sistema di lavori, quello precostituito, che ci insegnano a casa, a scuola o all'oratorio. E poi invece ci sono cose che illegali non sono, ma che ci creano degli imbarazzi, delle vergogne. E com'è come non è, quelle cose lì di solito hanno sempre a che fare con il sesso e con il senso di colpa. Sono le ragioni che mi spingevano ad andare nelle farmacie dei paesi vicino al mio per comprare una scatola di profilattici, perché in quella del mio paese avevo paura che Giuseppe, il farmacista, mi giudicasse male. Che poi cosa vuol dire mi giudicasse male, non lo so. Sono le ragioni che ci fanno stringere gli occhi se pensiamo alla vita sessuale dei nostri genitori, che addirittura per alcuni di noi no, è impossibile, guarda, i miei non lo fanno. Ci ho pensato ieri, quando dopo aver preso la multa per il contromano ho conosciuto il mio dirimpettaio, quello di cui mi aveva parlato la portinaia, quello che di mestiere fa l'attore porno, quello che sul citofono si chiama Elvis Martini. Natalie in questi giorni non c'è. Io mi godo la sua casa, cercando di non pensare a quel baule pieno di cose misteriose che non devo vedere. E quindi mi distraggo facendo altro. Il mio passatempo preferito è decisamente scoprire le vite degli abitanti di questo stabile. Nel ballatoio di fronte al mio ci vive un tizio che ha più o meno la mia età. Sembra simpatico. Saluta sempre quando incrocia qualcuno per le scale. E ha un forte accento siciliano, catanese, per l'esattezza. Il giorno in cui ero nella guardiola insieme alla portinaia, la signora Ludovica, lui è passato e ha salutato con il solito tono cordiale. Poi, appena è sparito dal riquadro della finestrella, la signora Ludovica mi ha detto: quello lì fa un mestiere che non si può dire. Immediatamente ho pensato a qualcosa di illecito, tipo il narcotrafficante, il topo d'appartamento. Invece mi è bastato guardare il modo in cui lei piegava le labbra e sollevava appena le sopracciglia per capire che non era nulla di penalmente perseguibile. E c'era di mezzo il sesso. Lì per lì ho lasciato stare, ma ho cercato di capire di che cosa si potesse trattare, anche se una mezza idea ce l'avevo già. Ho chiamato Natalie, le ho chiesto se lei ne sapesse qualcosa di quel ragazzo che abitava di fronte a noi, e lei mi ha detto che no, non ne sapeva nulla, ma che dovevo smetterla di farmi i fatti degli altri, che questa cosa prima o poi mi avrebbe messo nei casini. Io le ho detto di stare tranquilla, e all'ora di cena ho usato la scusa più scusa di tutte le scuse e sono andato a bussargli alla porta. Lui ha aperto con il solito modo cordiale. Gli ho detto che avevo finito il sale e se poteva prestarmene una manciata per la pasta. Mi ha fatto entrare. Mi ha detto che certo che ce l'aveva. Mi ha fatto accomodare. E mentre cercava in cucina mi ha chiesto se ero nuovo del palazzo. Gli ho raccontato tutto. Gli ho spiegato di Natalie, del trasloco appena fatto. Mi ha detto che lui invece stava qui da un paio d'anni. Stava a Milano da un paio d'anni. E si trovava bene, anche se lui è di Zia Lisa, un quartiere di Catania. Ha i capelli scuri, corti. Ha la faccia massiccia e le mani grosse. Mentre prendeva il sale mi ha detto: ma scusa, ma perché non ce la facciamo insieme questa pasta? Io allora sono andato a casa per prendere del salame e del formaggio, giusto per non farla parte di quello che arriva sempre a mani vuote, e sono tornato da lui. Quando ci sono uscito erano le 3 di notte e avevamo mangiato e chiacchierato di tutto, anche di lavoro, del mio e del suo. Quando gli ho detto che lavoravo in radio, lui mi ha detto che forse mi aveva sentito. Quando mi ha detto che lavorava nel porno, gli ho detto che io forse l'avevo visto. Ha iniziato a 20 anni, perché al mare in Sicilia aveva avuto una storia con una segretaria di produzione di film. Aveva iniziato a girare qualche film, ma solo all'estero, per non farsi riconoscere in Italia. Studiava lettere e lavorando un paio di mesi all'anno riusciva a pagarsi gli studi e l'affitto. Poi lo sdoppiamento è diventato eccessivo e ha mollato gli studi in lettere perché tra le due cose era quella che gli dava meno prospettive. Dopo qualche anno ha iniziato a fare dei film anche come regista, ma ancora non lo raccontava nessuno, tranne che a sua sorella, con cui condivideva l'appartamento all'epoca. Poi un giorno un tizio di Catania lo ha chiamato e gli ha detto: ma scusami, ma è possibile che ti abbia visto in un film con Selene? Ecco, lui lì ha capito che internet ormai non gli permetteva più di rimanere nascosto. Così ha preso un aereo ed è tornato a casa per raccontare del suo lavoro ai suoi genitori. Hanno pranzato insieme, poi lui si è alzato, ha preparato il caffè, e mentre lo versava nelle tazzine ha detto: mamma, papà, vi devo dire una cosa. raccontato tutto, per filo e per segno, aspettandosi qualsiasi tipo di reazione. Quella che è arrivata invece è stata una domanda di sua madre, che più o meno suonava così: ma scusami, ma fai qualcosa di illegale? E allora che problema c'è? Io ho sorriso quando me l'ha raccontato. Ho pensato che sua madre fosse molto più avanti di me, che prima di entrare in quella casa avevo immaginato chissà che. E invece mi trovavo semplicemente davanti a me un tizio della mia età che cucinava una pasta alla norma da paura. Poi mi ha raccontato altre cose, ma quelle qui non ve le posso raccontare. It's locked up like a trophy, forgetting all the things stand. (0024) 0024 349 238 6666. Ammetto di essere un pochettino deluso, credevo di avere degli ascoltatori più legalisti e invece è esattamente il contrario. Però andiamo con ordine, diamo le indicazioni, giuste indicazioni, visto che io mi domandavo se fumare marijuana fosse illegale o no. E qui mi scrivono: la detenzione di marijuana per uso personale è vietato dalla legge, la quale applica le sanzioni amministrative previste dall'articolo 75. Lo spaccio è punibile penalmente con il carcere, ovviamente. Io vorrei riuscire, e spero di farlo, vorrei riuscire a leggervi tutti i messaggi delle piccole cose illegali che sono arrivati. E ci provo, eh. Ho rigato la macchina ad uno che ce l'aveva parcheggiata malissima. Mi vergogno. Ciao Matteo, scarico 10 film al giorno da internet. Sono polacco e scarico film in polacco, non avendo possibilità di vederti in Italia. Credo che lui cerchi di scusarsi con la scusa che è polacco. Ho chiesto informazioni su un indirizzo che conoscevo ad un barista, solo per guardarle sedere. Ancora un minuto. Ad una barista. Non mi fermo agli stop. Piccole cose, scaricavo da internet, non dividevo la spazzatura, telefonavo in auto, vendevo droga agli amici. Poi di colpo, eliminando il senso di colpa, mi è apparsa la coscienza ed allora vivo da Dio. Non ho capito cosa vuol dire, se vive, se sei in carcere oppure no. Ho rubato la radiosveglia satellitare all'Hilton. Entrare in divieto d'accesso tutti i giorni con la macchina, sino a quando una mattina vengo fermato dai carabinieri, i quali sapevano che lo facevo sempre tutte le mattine. Da allora ho smesso di farlo. Ciao, sono Michela. L'ultima cosa illegale che ho fatto è andare nel bagno dell'azienda in cui lavoro per fumare. Lo faccio 3 volte al giorno. Non pago il canone Rai, non pago il canone della TV, non pago il canone Rai. Ce n'è, credo, una ventina. Da sempre rubo un quotidiano in autogrill. Arrivo alla cassa, pago le caramelle, la bottiglietta d'acqua, ma il quotidiano no. Sono ormai 8 anni, sempre e solo il Corriere della Sera. Non so perché, prima o poi lo capirò. Credo che qualche persona che possa aiutarti ci sia. Ho sorpassato la polizia a 170 all'ora. Vado avanti dopo perché sono veramente troppi. Abbiamo però subito una telefonata, giusto? Facciamo in tempo, sì, come no. Andiamo a Rimini da Alberto. Pronto, Alberto? Pronto, ciao. Ciao, tutto bene? Sì, sì, tutto bene, tutto bene. Certo, certo, scusami, chiaramente abbiamo deciso che il nome non è Paolo, ma è Alberto il nome anonimo di questa volta. Quindi ti chiamerò Alberto, anche se tu hai un altro nome che non dirai mai. Alberto, dimmi qual è stata la piccola cosa illegale. Allora, intanto vi devo fare una premessa abbastanza importante, no? Io sono un appartenente alle forze dell'ordine. Ah, ok. Innanzitutto. Benissimo. Ed è proprio qua forse il fulcro della questione, no? Perché io mi trovavo proprio per lavoro in un'altra città che non è la mia. Sì. Ed ero in un bel albergo dove dovevo soggiornare per quella notte. Sì. E praticamente era un mese che io stavo cercando un pezzo di un sanitario del mio bagno di casa, sì, e non riuscivo a trovare da nessuna parte. Che cos'era esattamente? Guarda, era il pezzo che sostiene la tazza che va appoggiata sopra il water. Ci sei? La tazza di plastica. No, è però... È un pezzo in acciaio che se uno... Va bene, nodo, diciamo. va bene, ok, perfetto. È un aggeggio che serve... Era per me totalmente introvabile. Era, sì, più di un mese che lo cercavo e non lo trovavo. Guarda, come d'incanto entro nel bagno di questa camera d'albergo abbastanza bella, devo dire, e mi trovo davanti lo stesso bagno che ho a casa io. Ok. E quindi cosa mi è venuto in mente? Dimmelo tu. Mi è venuto in mente la mattina dopo, ovviamente, di prendere, svegliarmi un quarto d'ora prima e smontare il pezzo dal water. Ma c'avevi degli attrezzi? No, sono come MacGyver, faccio... Ah, ok, c'avevi un coltellino svizzero. Quindi, morale della favola, riesco a smontare questo pezzo, anche abbastanza soddisfatto, no? Sì. Lo metto nella valigia, poi mi incammino verso l'uscita dell'albergo e devo andare via. La cosa principale è che i miei sensi di colpa hanno fatto capolino in maniera molto, molto forte, sì. Morale della favola, ero già uscito dall'albergo, stavo per salire in macchina, con una scusa incredibile, col borsone e tutto, ho detto, ho dimenticato una cosa in camera, sono salito. E gliel'hai rimontato? No, proprio rimontato, cioè sono dovuto tornare su mezz'ora e questi non so cosa avranno pensato, ma non mi hanno detto niente. Senti, diciamo che più che la tua coscienza è stata la tua anima professionale forse che ti è venuta in aiuto. Ma certo, mi sono detto come posso andare poi a prendere anche solo un ladro di pollo in giro quando io smonto i pezzi dei cessi negli alberghi e me li porto a casa, no? Grazie mille Alberto, buona giornata. Ciao. Ciao, grazie, alla prossima. Piccole cose illegali che non farò mai più, dopo la borsa. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao, e stai qui. Nella foto di oggi, ultimamente arrivano molte foto come questa, foto di paesaggi, in particolari ore del giorno, in particolar modo credo direi all'alba, è un paesaggio magnifico che potrebbe essere davvero l'Italia o l'Australia, potrebbe essere più Australia, non nelle condizioni in cui adesso purtroppo. Ci sono delle montagne in lontananza, la luce è rosa e anche un po' gialla, delle montagne che emergono dalla foschia e dei pali della luce, dritti e solitari. Sono Fabrizio Libralato e ho 50 anni. L'alba nel mio terrazzo è il momento che preferisco. Mi invita a nuove scoperte, a nuove bellezze. Ciao Matteo, io sono qui. Grazie Fabrizio, anche se non ho capito dov'è esattamente, però la foto è bellissima ed è sempre sul sito di Radio 24, radio24.it, è la pagina di Io sono qui. Ci sono una marea di telefonate di Alberti e Alberte e anche una marea di messaggi. Io credo che non ce la farò a leggerli tutti, però sono talmente belli e raccontano talmente tanto che credo che li pubblicheremo più tardi sul profilo Facebook. Facciamo una nota, Matteo Caccia, Io sono qui. Ho fatto addebitare i punti di penalità per un contromano fatto da mia moglie sulla patente della badante ucraina di mio padre. Ho preso un ombrello dimenticato all'asilo da una mamma e l'infame si è anche rotto. Ho fatto la pipì accovacciata e schiacciata da 1000 persone al concerto del 1° maggio mentre Manuel Agnelli cantava, ma non è illegale questo, è rischioso probabilmente. Ho preso una risma in ufficio, all'università di Milano ho scatenato un rissone, ho ferito 2 rivali politici e me la sono squagliata appena si è messa male, l'ho fatta franca, sono passati 4 anni. Sono in carrozzina, rigo le auto nei parcheggi riservati se non hanno il tagliando e se lo hanno, ma ho visto che dall'auto non sale o scende nessuno disabile, la rigo comunque, perché ne sta abusando. Falsificare bolli e firme dell'aiutante maggiore per i fogli di viaggio, stacco tranquillamente segni postdatati, insomma ve li leggo con calma tutti più tardi. Andiamo direttamente da qualche Alberto che è in ascolto. Vi ricordo che, visto che vi chiamerò tutti Alberto, semplicemente vi indicherò col nome della città, per cui andiamo da, mi avete detto quale, Alberto da Roma. Pronto Alberto da Roma? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Sono bene, sono appunto Alberto. Benissimo, io sono Matteo. Matteo, io confesso, da circa 15 anni che svolgo azioni illegali. Di che tipo? In realtà si tratta di reati omissivi, e cioè da quasi 15 anni che ometto di denunciare tutti quei miei colleghi che come me appartengono ad un corpo di polizia e che però a mia differenza scrivono su un atto pubblico di entrare alle 8 e invece entrano alle 9. Scrivono di uscire alle 17 e invece escono alle 15, oppure prendono la macchina di servizio e vanno a mangiare al ristorante. Senti, tu questa cosa la sai, chiaramente è una cosa che sanno tutti, mi sembra di capire, non solo tu. No, quello che io, questo non è ciò che io faccio. No, l'ho capito perfettamente. Quello che ti sto chiedendo è una cosa che all'interno del luogo in cui lavori è una cosa che si sa, non è che lo sai solo tu perché hai fatto delle ricerche. È un fenomeno molto diffuso e che se conosco io conoscono in tanti. E tu adesso hai deciso di invece... Adesso mi hanno pestato l'alluce, quello con l'unghia incarnita, e quindi ho deciso di smettere di commettere azioni illegali, di smettere di omettere, di non denunciare. Di non saperlo. E quindi adesso faccio quello che è il mio dovere, comincio a denunciare. Senti, mi dici qual è l'alluce con l'unghia incarnita? Sai, sono quei dispetti di grande entità che fanno nei confronti di alcune persone. No, non hai voglia di raccontarmelo. Alberto, ti ringrazio. Dente per dente. Ti ringrazio comunque, buona giornata. Buona giornata. Ciao, grazie. Andiamo a Rimini da Alberto, ovviamente. Pronto? Pronto. Ciao, sei tu? Sì, sei tu, come stai? Ciao Matteo. Ciao, raccontami. Faccio una premessa, io anche se mi chiamo Matteo ho origini extracomunitarie. Di dove sei, Alberto? Sono albanese. Sei albanese? Sono cittadino italiano da qualche anno, da 7 anni. Ok. Che cosa hai fatto? La mia storia è questa, che io c'avevo un cugino che era clandestino e faceva muratello in nero, come tanti. Sì. E c'è stata una sanatoria che sto cugino aveva paura di uscire da casa senza documenti e il suo datore di lavoro gli ha chiesto 10.000 euro, che è più o meno quello che gli pagava in un anno, per fargli i documenti, per farlo. Cioè, gli ha proposto di lavorare un anno gratis, detto altrimenti. Più o meno. E quindi cosa hai fatto tu, Alberto da Rimini? E poi io ho fatto finta che sto mio cugino fosse il mio reddito se lo permetteva, e gli ho fatto fare i documenti. E gli ho trovato un altro lavoro che non è più tornato a fare, cioè fa sempre il muratore, però è una persona che io spero sia più... Quanti anni fa è successo, Alberto? È successo un paio d'anni fa. Un paio d'anni fa, ok. Tuo cugino sta bene? Sta benissimo. Benissimo, ok. Alberto, grazie mille, buona giornata. Grazie a voi. Ciao, alla prossima, grazie. Andiamo da Alberta, da Treviso, pronto? Sì, pronto. Ciao, buongiorno, sei tu? Ciao, sono proprio io, Alberta. Sei proprio tu, Alberta, benissimo. Dimmi qual è la cosa illegale che hai fatto. Allora, premetto una cosa che sicuramente è una cosa da telefono azzurro, però... Allora, io era da 8 mesi che non dormivo. Sì. Avevo la bambina, ipercinetica, cioè di notte proprio non volevo saperne di dormire, non sì. volevo darle Noprom, che è uno sciroppo che fa da dormire. E quindi? E tra l'altro la stavo cercando di svezzare, cioè di toglierle il latte materno, finché una mattina schizzata più che mai in macchina con l'altra mia figlia, incolonnata in una statale, in ritardo, perché la stavo accompagnando a scuola, la bimba ha iniziato ad andare in escandescenza. Raccontami che cosa hai fatto, che purtroppo devo salutarti. Dimmi. Praticamente io mi sono messa ad allattarla in macchina, l'altra figlia mi ha passato una coperta e praticamente è andata così, insomma. Va bene, sta bene tua figlia comunque. Sì, tutto a posto. Grazie mille, ciao, buona giornata. Andiamo con l'ultima telefonata, andiamo da Alberto, da Senigallia però questa volta, pronto? Alessandro da Senigallia, pronto? Vabbè, avevamo deciso che allora, rimanevamo a noi. Allora, sono un coglione del 91, servizio militare, dicembre del 91, sì? Mi trovo a essere io il furiere, ci sono le feste del Natale, deve partire un po' di gente, licenza su 150 persone, sì? Tante maggiore non si trova. Comandante non si trova, mi trovo a falsificare 150 fogli di viaggio con firma, bolli, eccetera. Alberto, grazie mille. Sono passati 20 anni. Grazie mille, ciao, buona giornata. Ciao. Ce n'erano un sacco di telefonate, ci sono un sacco di messaggi. Le telefonate non posso farlo, ma i messaggi li pubblico assolutamente tutti in maniera anonima, ovviamente sul profilo Facebook. Matteo Caccia, io sono qui. Abbiamo invece ho cominciato a leggere alcuni dei racconti che sono arrivati a Io sono qui, @ Radio 24, ed è arrivato il momento di leggerne uno. Un problema risolto di notte. Questa è la storia di una lunga diatriba condominiale che per 2 o 3 anni si svolse in una ex osteria con cambio di cavalli, risalente al 500. Un'osteria che già all'epoca di Renzo e Lucia era diventata un convento di suore di clausura ben fuori dalle mura di Milano. L'antico edificio rialzato nei secoli, intonacato e ricoperto di tegole di cotto, costeggia il Naviglio Grande, ma lo abbandona ad angolo acuto, come per distaccarsene, racchiudendo nel suo interno le rampe di scalini di pietra incassati nei muri portanti, larghi e ben spaziati. Alla fine di ogni corridoio di ringhiera c'è un bugigattolo, quadrato, chiuso da una porta di legno decrepito, un tempo l'unico servizio igienico di tutto il piano e di tutti i suoi abitanti. Poi con il passare del tempo e delle ristrutturazioni, il bugigattolo è diventato il deposito dei secchi e delle scope dell'impresa di Filippini, che una volta alla settimana, a spese condominiali, tiene più o meno puliti il cortile e le scale. Quando divenni proprietario di 46 millesimi del tutto, con il mio bilocale al secondo piano con le travi a vista, fu facile per gli altri condomini approfittare subito del mio entusiasmo ingenuo e finì presto responsabilizzato sul controllo dei conti dell'amministratore, che era debole di vista, era debole di salute e di fermezza. E fui quindi coinvolto in una casistica assurda, irrisolvibile, protrattasi negli anni sull'occupazione di uno degli sgabuzzini comuni da parte della famiglia Finzi. I Finzi avevano aperto un buco nel muro di un loro salotto, creando un caminetto, il cui fornello e la cui canna fumaria avevano preso posto proprio nel bugigattolo condominiale. Pare che i Finzi avessero chiesto in un'assemblea risalente alla notte dei tempi se era possibile mettere provvisoriamente degli attrezzi nello sgabuzzino del secondo piano. Si erano poi rifiutati di distruggere quella costosa e preziosa opera muraria. Insomma, non se ne usciva. Sul fronte che da Sarnico scende a sud, formando un ampio bacino prima di una diga, legata allo scivolo proprio davanti alla mia seconda casa, tenevo una barca da lago. La seconda volta che ci andai con la mia fidanzata, che sapeva la storia del condominio, lei si stupì perché la barca, che tirai facilmente sulla spiaggetta, era fermata a un corpo morto a 3 o 4 metri dalla riva. Lei mi guardò e mi chiese: «Come hai fatto a mettere un peso nell'acqua? Cosa c'è lì sotto?» L'ho guardata e le ho risposto: «È che ho lavorato la notte di Ferragosto. Lì sotto c'è il cammino dei Finzi». Io sono qui, @radio24.it, per mandarmi i vostri brevi racconti. Se avete voglia di scrivere qualcosa che racconta del luogo in cui vi trovate e in cui siete, io sono qui, @radio24.it. Gli ultimi SMS di cose illegali: mi collego all'ADSL wireless del vicino di casa, ma soprattutto sto scrivendo questo SMS mentre guido. Grazie a Paulino Corleone, a Tiziano Bonini e a Viola Bottoni. Lunedì non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?